Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il punto è che se io ti vedo che timbri per un altro, che timbri e vai a fare un altro lavoro, che timbri e torna a casa e ho una prova schiacciante, credo che l'etica, anche in difesa della maggioranza dei lavoratori pubblici che ogni giorno fanno con dedizione e competenza il loro lavoro, voglia che quelle persone vadano a casa senza stipendio in modo quasi immediato, entro 48 ore. Questo vuole l'etica, come dice la ministra della pubblica amministrazione Madia. L'etica vuole che queste persone, i famosi furbetti del cartellino, vadano a casa entro 48 ore. Vi ricordate per esempio il caso clamoroso di Sanremo, dove in massa andavano a timbrare e poi andavano a fare tutt'altro, anche la storia del vigile in mutande, vi ricordate? Bene, è una vicenda che ha fatto molto arrabbiare. Allora adesso, in realtà venerdì, vi ricordate, qui nell'ultima puntata della scorsa settimana di Effetto Notte, vi avevo fatto sentire un Renzi che diceva basta con i fannulloni della pubblica amministrazione, entro 48 ore in questi casi gravi di violazione saranno sospesi, licenziati in realtà, aveva detto, anche se adesso si parla prima di sospensione, poi ci saranno penso più o meno 5 giorni per difendersi, dopodiché si potrà passare a licenziamento. Naturalmente la cosa sarà un pochino più complessa, ma quello che vi chiedo questa sera, tra poco poi vi annuncerò anche alcuni dei temi di questa puntata di Ripresa della Settimana, è proprio questo. Il governo ha annunciato nei giorni scorsi appunto l'approvazione già mercoledì per mercoledì, quindi dopodomani, di nuove norme che consentano in sole 48 ore la sospensione senza stipendio del dipendente sorpreso in flagranza a commettere violazioni gravi, ed è probabile che dopo queste 48 ore di sospensione cautelare le nuove norme lasciano al lavoratore, in caso di prove inequivocabili dell'illecito, solo 5 giorni per difendersi come prevede la legge. La CGIL però dice no, è insorta. La leader della CGIL Susanna Camusso ha detto questa in realtà mi sembra propaganda, perché cioè queste regole già ci sono, le norme già ci sono, perché adesso far finta di inventarne di nuove? Piuttosto mi chiederei perché non vengono applicate. Voi cosa ne pensate di tutta questa questione dei fannulloni, della stretta del governo e della leader della CGIL Camusso che dice le norme ci sono già, altrimenti è propaganda, se invece non si riconoscono che ci sono, perché invece non vengono applicate? 349-238-66 666, il numero per gli sms per interagire qui come sempre con Effetto Notte, 349-238-6666, oppure sapete che è sempre lì per voi giorno e notte la pagina Facebook di Effetto Notte, potete quindi andare a mettere i vostri commenti lì. Parleremo naturalmente anche della tensione crescente tra Commissione Europea e governo italiano, solo una questione di flessibilità, l'ho inventata io, non l'ho inventata tu, vi ricordate già venerdì questa polemica, capiremo quali retroscena ci sono, e poi parleremo anche di un nuovo caso di presunto almeno bullismo, di bullismo o presunto bullismo con questa ragazzina di 12 anni che a Pordenone in Friuli Venezia Giulia si è buttata dal secondo piano di casa sua perché diceva non ce la faceva più ad andare a scuola, a sopportare forme di bullismo. Insomma, molte le notizie anche in questa ripresa di settimana. Adesso vi dico quali sono i titoli più importanti. Le tensioni tra Juncker e Renzi, l'Unione Europea accusa, manca un interlocutore, troppi malintesi, ma il ministro Gentiloni risponde, abbiamo un governo con pieni poteri, polemiche inutili. Mercati, le banche trascinano a ribasso Piazza Affari, MPS meno 14,7%, il presidente della Consob Vegas commenta sul titolo mani italiane ed estere, vietate le vendite allo scoperto. Il caso di Quarto, la sindaca Capuozzo ai magistrati dice il Movimento 5 Stelle è scappato davanti alla lotta al malaffare. Unioni civili, si va verso modifiche dopo l'intervento del Colle. Riforma della pubblica amministrazione, Camusso contro le nuove norme antifannulloni, licenziare i furbetti del cartellino, dice le regole ci sono già. Immigrazione, Slovenia e Croazia potrebbero sospendere Schengen, il ministero austriaco dice non escludiamo i controlli al Brennero. Francia, l'allarme di Hollande, il nostro paese in emergenza economica, annuncia un piano da 2 miliardi contro la disoccupazione. Bullismo, una ragazzina di 12 anni si lancia dalla finestra a Pordenone, non ce la facevo a rientrare a scuola, aveva scritto in una lettera, non è in pericolo di vita. MotoGP, Rossi e Lorenzo di nuovo faccia a faccia per la presentazione della nuova Yamaha. WhatsApp, il social ritorna gratuito, tolti gli 89 cent all'anno. E Partiamo quindi dalle tensioni, vi dicevo, tra Juncker e Renzi, esplose venerdì scorso su chi doveva attribuirsi il merito di aver introdotto la flessibilità nei conti pubblici, questa quindi diatriba dal Presidente della Commissione Europea Juncker e il Presidente del Consiglio italiano Renzi. E oggi è sfociata in altre polemiche, di cui parleremo in modo approfondito tra poco, anche appunto per capire che cosa ci sia effettivamente dietro questa tensione. Non credo che ci sia soltanto la flessibilità, no? E poi per i mercati, giornata questa è stata decisamente negativa per Piazza Affari, che paga il cattivo andamento dei titoli bancari, in particolare di MPS, che ha lasciato sul terreno un altro 15% e cede il 2,65% in chiusura con il FTSE MIB. A Piazza Affari va quindi la maglia nera del peggior listino d'Europa, e le altre piazze del vecchio continente, dopo una giornata di alti e bassi, chiudono con cali generalizzati ma comunque al di sotto del mezzo punto percentuale. E c'è anche l'effetto petrolio sui mercati, il Brent è ai minimi dal 2013 dopo la fine delle sanzioni all'Iran di questi giorni. Terrorismo. La polizia marocchina ha arrestato un cittadino belga di origini marocchine con legami diretti con alcuni degli attentatori delle stragi di Parigi, lo ha annunciato il Ministero degli Interni di Rabat. L'uomo in passato era stato in Siria insieme a uno degli attentatori che si erano fatti saltare vicino allo stadio parigino a Saint-Denis. E restiamo allora sulla Francia, che interverrà anche sulla disoccupazione, lo ha annunciato il presidente Hollande. Mais je considère que face au désordre du monde. Sentite il capo dell'Eliseo, che ha parlato di un paese in emergenza economica e ha presentato, a meno di 18 mesi dalle presidenziali, un piano d'emergenza sul lavoro. 7 misure finanziate con oltre 2 miliardi di euro di sforzi di bilancio, dice dunque, senza un aumento delle tasse. E a proposito di emergenze economiche e di disuguaglianze, dal 2000 ad oggi la metà più povera della popolazione mondiale ha beneficiato soltanto dell'1% dell'incremento della ricchezza globale, lo dice un rapporto di Oxfam diffuso oggi. 62 persone al mondo possiedono la stessa ricchezza, 1,76 mila miliardi di dollari, dei 3 miliardi e mezzo di persone più povere del mondo. Lo dice il rapporto della ONG Oxfam, An Economy for the 1%, che viene lanciato oggi alla vigilia del World Economic Forum di Davos. E la situazione nel tempo va peggiorando, dicono i relatori. In Italia non va meglio. Il 10% della popolazione italiana possiede oggi quasi 8 volte la ricchezza della metà più povera della popolazione. Nello studio i nuovi dati evidenziano come a livello italiano e a livello globale la disuguaglianza sta raggiungendo valori estremi mai toccati prima. L'1% più ricco della popolazione mondiale possiede infatti oggi una ricchezza superiore al resto del mondo messo assieme. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo anche di immigrazione. Slovenia e Croazia potrebbero sospendere l'accordo della libera circolazione delle persone, l'accordo di Schengen, e il ministero austriaco dice non escludiamo controlli al Brennero. Restiamo all'estero con Colonia in Germania, sapete, è diventata particolarmente famosa per le molestie sessuali di massa di Capodanno contro le donne. Un algerino di 26 anni è il primo arrestato per quelle molestie sessuali di Colonia nella notte di Capodanno, lo ha reso noto il procuratore della città. L'accusa nei confronti del giovane è di furto del telefonino e molestie sessuali nei confronti di una donna. È stato arrestato nel campo profughi di Karpen, a pochi chilometri da Colonia. Russia, no russo alla legge anti-gay. La Duma, il Parlamento russo, non ha accolto il disegno di legge presentato da due deputati del Partito Comunista che prevedeva multe e in alcuni casi persino l'arresto fino a 15 giorni per manifestazione di affetto in pubblico tra persone dello stesso sesso. La bocciatura, stando a un deputato che ha partecipato alla seduta, è avvenuta sulla base di motivi formali. E siamo alla politica italiana. In primo piano, in vista del Consiglio dei Ministri di mercoledì, vi dicevo, la stretta sui dipendenti pubblici, fannulloni. Governo al lavoro per portare nel Consiglio dei Ministri di mercoledì la cosiddetta norma antifannulloni, la stretta su chi timbra e poi fa altro invece di lavorare passerà per un netto taglio dei tempi per il licenziamento. Sarà rivisto anche il ruolo dei dirigenti, che saranno d'ora in poi obbligati a denunciare gli illeciti e a prendere i conseguenti provvedimenti, pena il loro stesso allontanamento. Al contempo la Corte dei Conti sarà incaricata di accertare l'eventuale danno erariale. Le regole contro i furbetti ci sono già, commentano però dal sindacato. mercato, così la Camusso CGIL. Se io fossi il governo mi domanderei perché quelle regole che ci sono non vengono applicate, e forse allora il problema non è il sindacato, forse il problema è come funziona la responsabilità e la direzione della pubblica amministrazione, e si scoprirebbe che è troppo comoda pigliarsela con il sindacato. Si discute di licenziamenti quando la priorità è il rinnovo dei contratti del pubblico impiego bloccati da 6 anni, dice Foccillo della UIL. Critica al governo anche dalle opposizioni. Le norme per combattere l'assenteismo già ci sono, commenta da Forza Italia Brunetta. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Che ne pensate dunque di questo tema della stretta che annuncia il governo per mercoledì sui cosiddetti dipendenti pubblici fannulloni, e dall'altra parte la leader della CGIL Camusso che dice queste norme già ci sono, perché allora fare tutto questo cancan? Propaganda, in realtà bisogna capire, dice, perché non vengono applicate. 349-238-6666 per i vostri commenti via SMS, oppure per i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, basta che andate lì, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, e la trovate. E restano in fibrillazione, parlando sempre della politica italiana, i 5 Stelle. La sindaca di Quarto ha nuovamente accusato i vertici del movimento. È inutile avere le mani pulite se poi le si tiene in tasca. A Quarto, davanti al malaffare, il Movimento 5 Stelle è scappato. Passa al contrattacco Rosa Capuozzo. Su Facebook il sindaco del comune Flegreo punta il dito contro i vertici pentastellati che l'hanno espulsa, accusandola di non aver denunciato il presunto ricatto subito da parte di Giovanni De Robbio, il consigliere comunale indagato per voto di scambio e a sua volta espulso. È stata una scelta politica presa in una stanza grigia di Milano, scrive la prima cittadina ribadendo la volontà di restare al suo posto. Domani sera Capuozzo sarà ascoltata dalla commissione parlamentare antimafia a far discutere. Intanto oggi sono anche le sue dichiarazioni ai PM di Napoli, ai quali il sindaco ha detto di aver informato Roberto Fico già a fine novembre delle minacce subite, una circostanza sempre smentita però dal membro del direttorio 5 Stelle. Nelle dichiarazioni di Capuozzo non c'è nulla di nuovo, replicano i gruppi parlamentari grillini, secondo i quali i verbali dei suoi interrogatori confermano che i vertici del movimento non erano stati informati delle pressioni subite dal sindaco. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo anche di unioni civili, perché si va verso delle possibili modifiche dopo l'intervento del Colle, che parrebbe aver detto Mattarella che ci potrebbero essere degli elementi di incostituzionalità. Però dal PD rispondono, veramente già passata il disegno di legge è già passato dalla Commissione Affari Costituzionali, per cui insomma continua la polemica. E c'è anche una notizia che riguarda i Marò, perché si terrà il 30 e il 31 marzo prossimo all'AIA l'udienza davanti al Tribunale Arbitrale che esaminerà la richiesta avanzata dall'Italia lo scorso dicembre per far rientrare anche il Marò Salvatore Girone dall'India e farlo restare in patria per tutta la durata della procedura arbitrale in corso. In quell'occasione ci sarà una risposta all'Italia. Cronaca, bullismo. Una ragazzina di 12 anni si lancia dalla finestra e scrive in una lettera: non ce la facevo a rientrare a scuola. Così l'aveva scritto, una lettera lasciata ai genitori. Ai suoi compagni invece ha scritto: così sarete contenti. Non è in pericolo di vita. Ne parleremo dopo con un noto psichiatra, anche alla luce di una ricerca presentata dal portale scuola.net, dal quale emergerebbe che uno studente su 3, soprattutto ragazze, ha subito violenza psicologica o fisica. Sempre per la cronaca, il diritto Mota Visconti è stato condannato all'ergastolo. Carlo Lissi, l'uomo di 34 anni, accusato dell'omicidio della moglie Maria Cristina Omes e dei figli Giulia, 5 anni, Gabriele, 20 mesi, assassinati, vi ricordate, il 14 giugno 2014 a Motta Visconti in provincia di Pavia. La sentenza del GUP di Pavia prevedeva anche 3 anni di isolamento diurno, poi la pena è stata ridotta perché Lissi era a giudizio con rito abbreviato. WhatsApp tornerà gratis. La chat di proprietà di Facebook, che viaggia verso il miliardo di utenti annunciato nel suo blog, che eliminerà il canone annuale, diciamo 99 centesimi, che più o meno tutti si potevano permettere di pagare, introdotto qualche anno fa non senza polemiche dagli utenti. Vabbè, si può risparmiare anche sui 100, naturalmente, se tutti contenti. L'abbonamento annuale scatta dopo l'utilizzo gratuito per 12 mesi, dal 12 mesi dall'applicazione, ma insomma sparisce. Per la chiusura invece il calcio, con la Coppa Italia, la Spezia Alessandria. Allora, Giovanni Capuano, prima dici semplicemente a che punto sono, poi alla fine della trasmissione ci racconti perché è particolare questa partita. Ciao Giovanni. Ciao, siamo al 12° del secondo tempo, 1-0 per lo Spezia sull'Alessandria. Ha segnato Calaiò su calcio di rigore al 20° del primo tempo, trattenuta di Celiac su Valentini, calcio di rigore assegnato dal direttore di gara che taglia vento. Calaiò ha colpito il palo interno e ha segnato, quindi 1-0 per lo Spezia. Però in questo secondo tempo è soprattutto l'Alessandria che sta creando i presupposti per cercare il pareggio e insomma dare corpo a un sogno storico, ma storico anche quello dello Spezia, ma quello dell'Alessandria a maggior ragione lo sarebbe di più. Grazie Giovanni, allora ci sentiamo dopo e ci spiega che storia c'è dietro questa partita. Intanto c'è anche la notizia extra. Questa volta è questa, a proposito di aborto in Italia, oltre alle denunce in Italia, l'ultima da parte della trasmissione di Rai 3 Presa Diretta, i problemi delle donne italiane che devono accedere all'aborto trovano spazio anche persino, pensate, sul New York Times. L'edizione online del quotidiano americano riporta la storia di Benedetta, una donna cui erano state diagnosticate malformazioni incompatibili con la vita per il bambino che aveva in grembo e che non è riuscita ad abortire nelle Marche. Non c'è stato verso. Mi hanno detto che il feto è incompatibile con la vita e che l'avrei perso così spontaneamente dopo la 20ª settimana, racconta la donna di Ascoli Piceno. Aspettare che una donna vada veda la pancia crescere per una vita condannata, lei ha detto, è inumano. E secondo quanto riporta il New York Times, che cita anche altri casi, la donna è stata rifiutata da diversi ospedali prima di trovare un medico dell'AIE, dell'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica. Secondo Silvana Agatone, che è ginecologa romana, fondatrice dell'associazione LAIGA, che si batte per l'applicazione della legge 194, quella sull'aborto in Italia, su 10.000 ginecologi italiani che lavorano negli ospedali italiani, solo 1.200 non sono obiettori, cioè solo 1.200 accettano di praticare l'aborto. La maggior parte dei non obiettori, dice, è vicina tra l'altro alla pensione, dice al New York Times, e quindi presto avremo problemi ad aiutare queste donne. Adesso, prima della viabilità, vorrei vedere qualche vostro messaggio a proposito della vicenda dei fannulloni. Pietro scrive al 349-238-6666: se le regole antifannulloni esistono già ma non sono applicate, dobbiamo ringraziare proprio i sindacati che hanno sempre coperto indiscriminatamente i dipendenti pubblici. La Camusso è sempre più divertente, dovrebbe cambiare il cognome in Cabuffa. E poi invece dice una Licia da Marostica: ma comunque come potrà il nostro caro Renzi scagliarsi contro i dipendenti pubblici quando lui stesso lo è? Ma ne vedremo delle belle, dice questa ascoltatrice. Poi Andrea da Bologna invece su Olanda: mica regala il buono da 500 euro ai diciottenni come Renzi, dice Andrea da Bologna. 349-238-6666 per i vostri commenti e naturalmente anche la pagina Facebook di Effetto Notte. A momenti ci risentiamo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco cercheremo di capire quali sono i possibili retroscena dietro questa tensione tra la Commissione Europea e il governo italiano. Intanto vedo una notizia che invece è di cinema, diciamo tutt'altro tipo, vediamo se riesco a spostarla. Ecco qui, Spike Lee, il regista, non parteciperà alla cerimonia degli Oscar il mese prossimo. L'annuncio è stato fatto dallo stesso regista di Brooklyn su Instagram, denunciando la mancanza di diversità tra gli attori candidati. Lee ha approfittato del giorno in cui si festeggia Martin Luther King, 18 gennaio, appunto, leader dei diritti civili, per mettere in evidenza che gli Oscar sono ancora troppo bianchi. Sapete che quando sono state annunciate insomma le candidature la scorsa settimana, ne abbiamo parlato qui Effetto Notte, c'era stata effettivamente la polemica sulla mancanza di attori neri, ma anche su un numero assolutamente esiguo come sempre di donne. E questa, quindi, la polemica continua con questo boicottaggio da parte di Spike Lee. Però prima di passare al prossimo tema, vediamo ancora un vostro messaggio su questa vicenda della stretta sui fannulloni. Chiara sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: sono una giuslavorista e ritengo che vada benissimo, significherebbe né più né meno applicare anche ai dipendenti pubblici l'articolo 7 dello statuto dei lavoratori, se va bene per i dipendenti privati deve andare bene anche per il pubblico impiego. Ma vi ricordo, prima, se avete acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti del giorno. Nuovo affondo di Unione Europea sull'Italia. Non abbiamo interlocutori, nel senso interlocutori adeguati, ma il ministro Gentiloni risponde: sono polemiche inutili, abbiamo un governo che dialoga. Piazza Affari a picco con le banche, soprattutto su MPS, sulla quale indaga la Consob, che ha chiuso a meno 15%. La sindaca Capuozzo, nel caso di Quarto, dice su Facebook, e anche magistrati del Movimento 5 Stelle, è scappato davanti alla lotta al malaffare. Sulle unioni civili si prevedono possibili modifiche a proposito dell'omologazione alle nozze, anche se molti dal PD dicono non c'è nessuna omologazione. Paura dei compagni bulli e si butta dalla finestra a Pordenone una ragazzina di 12 anni, si è salvata anche se sembra che abbia delle lesioni alle vertebre, sul biglietto va scritto: così sarete contenti, compagni. A proposito di immigrazione, Slovenia e Croazia potrebbero sospendere Schengen e anche il ministero austriaco dice non escludiamo i controlli al Brennero. La riforma della pubblica amministrazione, abbiamo appena parlato, al leader Camusso, leader CGL, contro le nuove norme antifannulloni, dice licenziare i furbetti del cartellino, le regole già ci sono. E poi la morsa del gelo sull'Italia, vento e neve al centro-sud, scuole chiuse in molte zone, nuova allerta per il maltempo. Siamo quindi ai dissapori tra la Commissione europea e il governo italiano, quindi tra Juncker e Renzi. Vi ricordate che venerdì scorso Juncker aveva detto Renzi non offenda l'Unione Europea, la flessibilità l'ho introdotta io, non lui. Vogliamo sentirlo Juncker cosa aveva detto? L'Italia profitta di tutte le flessibilità che sono state introdotte. J'étais très surpris alla fine della presidenza italiana che Matteo Renzi ha detto al Parlamento Europeo che c'était lui qui avait introduit la flexibilité. C'était moi, pas lui. Avec son accord, mais c'était moi. Siete moi, pas lui. Sono stato io a inventare e introdurre la flessibilità. Stiamo scherzando, diceva Juncker. E Renzi aveva prontamente risposto che l'Italia non si lascia intimidire e anzi. Se qualcuno rimpiange i tempi in cui da Bruxelles si poteva dettare la linea a Roma, si poteva telecomandare Roma, e quel tempo lì è finito, La stagione in cui l'Italia doveva fare i compiti a casa è finita, noi abbiamo fatto le nostre riforme, ora chiediamo rispetto per tutti. Ora, Renzi nel fine settimana aveva anche aggiunto che insomma, era inutile fare tutte queste, in un contesto internazionale così difficile, così arroventato, era inutile fare polemiche su queste quisquilie, ma la faccenda, come vedete, non si è certo conclusa lì. Fonti a Bruxelles riferiscono ci sono troppi malintesi sui dossier più delicati, perciò Juncker ha perso la pazienza. L'istituzione comunitaria ha cercato di attribuire l'assenza, diciamo questi malintesi, all'assenza di interlocutori adeguati da parte del governo italiano e quindi dice per questo ci sono stati questi clamorosi contrasti. E a questo oggi il responsabile della Farnesina, cioè Paolo Gentiloni, ministro degli esteri, ha risposto così. Non so cosa dire, a me nessuno mi ha detto una cosa del genere. Io ho un continuo dialogo con le istituzioni sui problemi, penso che abbiamo un governo, un presidente del Consiglio, un ministro degli esteri, un ministro degli interni, un ministro dell'economia, a seconda delle questioni l'Italia è, diciamo, ha un governo nel pieno dei suoi poteri. Così ha detto Gentiloni e ha anche aggiunto. Ma io credo che francamente da Bruxelles siano arrivate delle polemiche che io considero inutili. Noi non partecipiamo a polemiche inutili, teniamo naturalmente alle nostre posizioni, ma lo facciamo come lo fa ciascun paese discutendo sui diversi argomenti. Penso che la situazione in Europa sia molto delicata sia sul fronte economico che sul fronte migratorio e questa situazione delicata dovrebbe essere affrontata, ripeto, senza accenti polemici come quelli che ho sentito da Bruxelles nei giorni scorsi che francamente sono, lo ripeto, inutili. Sono inutili queste polemiche. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao Guido. Ciao, buonasera. E che cosa c'è dietro in realtà? Perché vedo che anche il Wall Street Journal titola Italia contro Germania, l'ultima frattura in Europa. Quindi c'è dietro la Germania in realtà, dietro Juncker. Qual è la questione? Ma, dietro Juncker, diciamo che personifica l'asse, il cosiddetto asse franco-tedesco, addirittura nel suo nome, Jean-Claude, diciamo, la variabile francese Juncker. Juncker è la variabile tedesca. Quindi, un'ottima sintesi, quindi. Sì, un'ottima sintesi, lo è anche di fatto politicamente, perché è un lussemburghese ed è diciamo esponente di una nomenclatura europea che è sempre stata molto legata appunto alla Germania e ai francesi, in particolare alla Germania. E quindi da questo punto di vista non scopriamo nulla di nuovo. Ora, etichettare il tutto a un battibecco personale tra il nostro premier Matteo Renzi e il capo, diciamo, del governo europeo, della Commissione, Juncker, credo che sia inutile. I dossier sono, diciamo, di sostanza, ci sono vari punti, diciamo, di contrasto tra la posizione italiana e quella della Commissione europea e sullo sfondo c'è anche un modo diverso di interpretare le linee sulla cosiddetta flessibilità di bilancio. Non è una novità, adesso questi nodi stanno venendo di nuovo al pettine Ovviamente Renzi da un lato fa bene a porre alcuni problemi che sono nell'interesse anche e soprattutto dell'Italia, e dall'altro deve fare attenzione a non ritrovarsi isolato, perché in questo modo, se all'isolamento politico aggiungiamo magari un isolamento anche sui mercati internazionali, finanziari, in un momento particolarmente delicato, vediamo le incertezze e i numeri di questi giorni che non sono propriamente confortanti, beh, insomma, quindi c'è un momento particolarmente delicato nel rapporto tra Italia ed Europa, e quindi non è solo un battibecco personale. Tra l'altro, a Radio Radicale, un'agenzia di poco fa, l'ambasciatrice tedesca in Italia, Susanna Marianne Wasum-Reiner, ha detto: la Germania ha bisogno dell'Italia, ne riconosce e apprezza gli sforzi volti a migliorare l'Europa e a modernare il proprio paese. Roma e Berlino hanno interessi comuni, problemi comuni, siamo uniti e abbiamo una grossa responsabilità. Poi ha aggiunto però: la clausola della flessibilità deve venire applicata solo in casi eccezionali, non vi si dovrebbe ricorrere annualmente per non aver rispettato il deficit di stabilità. Questa è la posizione tedesca nota, ed è la posizione anche del commissario all'economia Moscovici, che tra l'altro è un francese, che ha già avvertito sul fatto che l'Italia ha già ottenuto la flessibilità che aveva chiesto negli anni scorsi e quest'anno, e che sostanzialmente non è un tema ripetibile, diciamo, su richiesta. Quindi ci sarà un esame molto approfondito delle richieste italiane da parte della Commissione europea. Probabilmente sono dei problemi, dei nodi che verranno risolti, io credo, nell'incontro di fine mese che ci sarà proprio a Berlino tra Renzi e la cancelliera tedesca Angela Merkel, che precederà la visita di Juncker a Roma all'inizio di febbraio. Quindi probabilmente quelli saranno i due momenti in cui si cercherà di ricomporre questa frattura, che comunque è importante perché coinvolge l'Italia, che è uno dei paesi fondatori. Ora ti invece coinvolgerei, Guido Gentili, sulla questione dei fannulloni, sull'inasprimento che ha proposto, anzi se ne dovrebbe discutere in Consiglio dei Ministri da parte del governo mercoledì. Ti leggo anche qualche altro messaggio, molti stanno arrivando da parte delle ascoltatrici e degli ascoltatori al 349-238-6666, SMS, e gli altri sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Beppe Guastalla scrive: se il giudice reintegra il licenziato, il dirigente pubblico paga i danni, chi glielo fa fare? L'azienda non è sua. Poi un altro scrive: devono essere licenziati subito, devono restituire i soldi e poi devono andare in galera. Marco: le assenze nel privato sono in media del 4%, nel pubblico di oltre il 12%. E poi ancora qualche altro messaggio. Giorgio: che se già ci sono queste norme ma non funzionano o vengono mal interpretate, si possono sostituire con leggi che funzionano meglio e che si prestino in questo caso meno all'interpretazione semplice, tranne che per la Camusso, che ha il terrore di perdere qualche iscritto e peggiorare l'emorragia. Elena dice: non è solamente Camusso a sostenere che le norme esistono già, il problema è la loro applicazione. Se è vero come sembra che l'anello debole siano i dirigenti che per varie ragioni non applicano le norme, non è che domani cominceranno a farlo, 48 ore o 20 giorni che siano non fa differenza. Come commenti, Guido? Ma io commento, il problema esiste ed è reale, e sono i dati dimostrano che c'è una situazione molto diversa tra l'assenteismo del settore privato, che è molto inferiore, e quello del settore pubblico, ed è una piaga che ci portiamo dietro da decine di anni, non da ieri. Capisco chi dice le norme ci sono già, è vero, alcune norme ci sono già e vanno in questa direzione, però evidentemente non bastano, e soprattutto adesso attendiamo mercoledì, quando vedremo dopodomani il testo di questo decreto e cosa c'è scritto davvero. Però per esempio io non ricordo che nella legislazione attuale e nelle circolari applicative ci siano delle norme che riguardano ad esempio la tagliola delle 48 ore come limite entro il quale, diciamo, il lavoratore viene messo fuori dal lavoro. Quindi credo che se c'è qualche norma che, diciamo, riesce a essere più incisiva e per ottenere magari lo stesso risultato che dicono alcuni già è previsto dall'attuale normativa, io credo ben venga, perché il problema c'è e non dobbiamo far finta di nulla. Per chiudere, Guido Gentili, proprio una battuta su questo commento di questa ascoltatrice Ilaria Luisa sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che dice: forse il problema vero non è che siano presenti sul posto di lavoro, ma che effettivamente abbiano del lavoro da svolgere. Non so se eccessivamente questo è certo, questo può essere un problema, perché sappiamo che spesso magari ci sono dei posti nell'amministrazione pubblica dove, diciamo, la burocrazia lavora per la burocrazia, nel senso che è un circolo vizioso e che diciamo, non hanno alcuna attinenza diciamo, a quelle che sono le richieste dei cittadini e delle imprese. Però insomma questo è un problema che tocca poi la produttività del lavoro in questi settori della pubblica amministrazione, ma qui facciamo un passo ancora in avanti. Io mi accontenterei che ci fosse effettivamente una norma chiara e precisa che eviti e blocchi, contenga questo scandalo diciamo dell'assenteismo nel pubblico impiego. Grazie Guido Gentili. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Allora, prima di lasciarci brevemente per questa ricreazione, come al solito, una pausa giusto per riprendere fiato, Corrado scrive: propaganda ridicola, anche a Rina è concesso il diritto alla difesa, le regole ci sono, i 90 giorni, volendo si può licenziare, sempre su questa vicenda dell'inasprimento sui comportamenti dei fannulloni. A dopo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sono qua, è Roberta Giordano, sempre con voi come al solito fino alle 22 per avere il quadro completo, esauriente della giornata e diversi argomenti anche approfonditi insieme agli ospiti. Tra poco ne saluterò altri. Vi ricordo che per le vostre opinioni, i vostri commenti ci sono sempre la pagina Facebook del programma, pagina Effetto Notte, oppure gli sms al 349-238-6666. Stavo guardando ancora altri vostri messaggi sulla decisione del governo di inasprire le norme sul licenziamento dei furbetti del cartellino, ormai questa è diventata la definizione, rifacendosi soprattutto, insomma, il caso più eclatante degli ultimi tempi è stato quello di Sanremo, dove avete visto anche dei video frotte di impiegati pubblici del comune che andavano lì, beggiavano, come si dice, e poi andavano a fare tutt'altro, compreso un vigile che arrivava in mutande e ciabatte e poi ritornava a fare le cose sue. Allora, Maurizia scrive: le leggi ci sono già, come dice la Camusso, e Renzi, che è laureato in giurisprudenza, dovrebbe saperlo più di chiunque altro, è solo propaganda, perché vi dicevo che la leader CGIL Camusso ha detto: ma quali norme nuove? Ci sono già queste leggi, il problema è che non vengono applicate. E perché, si chiede lei, non vengono applicate? Questo voglio sapere. Allora, un altro messaggio scrive: applicare la norma Brunetta potrebbe essere un ritorno d'immagine ben maggiore dell'ignavia, ma l'assunzione di responsabilità è un'etica inesistente tra i principi dei manager pubblici. Decidere comporta rispondere delle proprie azioni e pagare semmai degli errori. Ha detto bene la Camusso, scrive questo ascoltatore. Ma vi ricordo quali sono le notizie più importanti, a parte questa, della giornata. Le tensioni tra Juncker e Renzi, l'Unione Europea accusa, manca un interlocutore, troppi malintesi con l'Italia, ma il ministro Gentiloni risponde, abbiamo un governo con pieni poteri, polemiche inutili. Mercati, le banche trascinano al ribasso Piazza Affari, soprattutto con MPS meno 14,7%, il presidente della Consob Vegas commenta sul titolo Mani italiane ed estere. Il caso di Quarto, la sindaca Capuozzo su Facebook e i magistrati dice il Movimento 5 Stelle è scappato davanti alla lotta al malaffare. Unioni civili, si va verso delle modifiche dopo l'intervento del Colle. Riforma della pubblica amministrazione, Camusso contro le nuove norme antifannulloni, dice licenziare i furbetti del cartellino, le regole già ci sono. Immigrazione, Slovenia e Croazia potrebbero sospendere Schengen, il ministro austriaco dice non escludiamo i controlli al Brennero. Francia, l'allarme di Hollande, il nostro paese in emergenza economica, annuncia un piano da 2 miliardi contro la disoccupazione. Bullismo, ne parleremo tra pochissimo, questa ragazzina di 12 anni che si lancia dalla finestra e scrive non ce la facevo a rientrare a scuola. MotoGP, Rossi e Lorenzo di nuovo faccia a faccia per la presentazione della nuova Yamaha. E WhatsApp, il social, ritorna gratuito, tolti 99 cent all'anno. Saluto Paolo Crepè, notissimo psichiatra e scrittore. Buonasera Paolo. Buonasera, buonasera. E Carla Ardizzone, che è giornalista di scuola.net, il portale degli studenti. Buonasera Ardizzone. Buonasera a tutti. Allora, per chi non la sapesse, non l'avesse sentita, insomma, brevemente riassumo la vicenda di questa dodicenne che a Pordenone si è lanciata dalla finestra, dal secondo piano della sua casa, esasperata dal bullismo che subiva da alcuni suoi compagni. Così almeno si evince da due lettere che ha lasciato prima di buttarsi, una ai genitori in cui diceva non ce la facevo più a tornare in quella classe, e l'altra rivolta ai compagni in cui ha scritto adesso sarete contenti. Per fortuna è stata dichiarata fuori pericolo, però sembra che abbia varie fratture e forse anche una vertebra. E si apprende che quando la bambina era a terra, una volta atterrata nel giardino di casa sua, dove era ferita ma lucida dopo essersi lanciata dal balcone, la prima persona che l'ha soccorsa, che era un vicino, avrebbe detto a questo vicino, lui poi ha riportato questa frase, dice: oggi dovevo tornare a scuola dopo la malattia, ma io non ce la facevo a rientrare in quella classe, avevo paura di urlare al mondo i miei timori e così ho deciso di farla finita. E dice il vicino, ha usato parole che non mi sarei immaginato di udire da una dodicenne e soprattutto in questi frangenti così delicati. Insomma, poi la polizia, su richiesta della procura, sta analizzando il telefono cellulare e altre apparecchiature informatiche di questa ragazzina, eventuali attività sui social network, e in più sono andati i poliziotti a scuola anche per chiedere che cosa, se ci sono stati dei precedenti, qual era il clima, e la preside della scuola, frequentata da dodicenni, ha detto: non c'era alcun segnale che lasciasse presagire quanto accaduto, siamo sconvolti. Dice: mai emerso disagio di alcun tipo, men che meno episodi di presunto bullismo. E aggiunge la preside: la ragazzina ha sempre frequentato con profitto, anche se con una certa discontinuità, e spesso a casa per qualche problema di salute. Intanto il presidente del Senato Grasso sollecita questa legge contro il bullismo e dice: la prima rete però va costruita a scuola. Vorrei però sentire prima Carla Ardizzone di scuola.net, perché il vostro portale, Ardizzone, mi pare che abbia rilanciato i dati di una recente ricerca secondo la quale su 15.268 adolescenti sui quali un ragazzo su tre ha subito o violenza fisica o comunque psicologica. Mi sembra un dato terribile, possibile? È quello che ci hanno detto gli studenti. E noi abbiamo fatto questa ricerca in collaborazione con la Polizia Postale delle Comunicazioni all'interno della passata edizione della campagna educativa itinerante Una vita da social, che proprio si propone di affrontare problemi come il bullismo e il cyberbullismo e anche di lanciare un'educazione su questi temi, soprattutto tra i ragazzi e i teenager. Ecco, quello che è emerso da questa ricerca era proprio che un ragazzo su tre si è sentito preso di mira a scuola, offline quindi, ma non sono mancati coloro che hanno detto che invece anche il cyberbullismo online sia stato qualcosa che si verifica abbastanza spesso. Mi pare che le vittime siano soprattutto, tanto per cambiare, le femmine, le bambine, le ragazzine? Sì, diciamo che quello che è emerso da questa ricerca è che i più, diciamo, deboli, i più fragili per questo genere di problema sono proprio le ragazze e i ragazzi più piccoli, tra gli 11 e i 13 anni, quelli più esposti, diciamo, a questo tipo di fenomeni di bullismo. Paolo Crepeco, com'è possibile in Italia si è arrivati a questi livelli, o prima forse si denunciava meno, o ci sono nuovi mezzi, non so, l'educazione è cambiata, che cosa succede? Beh, un po' tutte queste cose, intanto non solo l'Italia. Certo. In altri paesi anche peggio, purtroppo. Sì, no, nel senso che se qualcuno vuole cercare in giro per l'Europa, gli Stati Uniti, di queste cose se ne sentono anche in Gran Bretagna. Mm. In Gran Bretagna, certo. Quindi se qualcuno si vuole attaccare a queste statistiche che c'è sempre il male peggiore. Il motivo per cui questo fenomeno si è sviluppato è legato allo sviluppo degli strumenti che sono sempre di più e che sono dati dai genitori ad un'età sempre più precoce. Oggi non è infrequente trovare un bambino dei primi anni delle elementari con il cellulare, che non è solo un cellulare, come ben sappiamo, anzi no, ormai non fa più funzione quasi per nulla di telefono, serve per altre cose. Quindi naturalmente credo che ciò che dobbiamo fare non sia una campagna di demonizzazione generalista contro qualsiasi forma di tecnologia, perché sennò no, questo senz'altro. Rischiamo anche di non essere compresi. Anche se, Paolo, vedevo da questa ricerca, sempre di scuola.net, mi può contraddire Carla Ardizzone se non è così, che per l'87% avviene nella vita reale, cioè solo una parte offline, sui social, ma per l'87% avviene proprio fisicamente nella vita reale, non attraverso questi mezzi. Sì, sì, beh, ma questo, okay. Allora, la violenza nelle scuole non è un dato recente, il bullismo non è un dato recente, e che ci sia un bullismo al femminile, anche questo purtroppo non è una novità e lo sappiamo bene, perché c'è una pari opportunità e questo è naturalmente la pari opportunità ha anche degli effetti collaterali, non solo di parità di diritto. C'è un dato però, è inutile che ci giriamo intorno perché sennò, che è un dato educativo. Mi sorprende molto le notizie che voi avete letto a proposito di Pordenone. Se questa bambina, ragazzina, non ha mentito, e non vedo perché avrebbe dovuto mentire proprio anche in quei momenti lì, e c'è qualcosa che non torna. Allora, che una scuola non si accorga di niente, purtroppo l'ho già vista, questo è un film che ho già visto, perché la scuola si occupa solo delle mega questioni, delle micro questioni che riguardano l'anima debole, fragile dell'adolescenza. L'adolescenza è un'età, la preadolescenza in questo caso, è un'età delicatissima, ne so qualcosa perché ci lavoro da 35 anni, e basta un tono della voce, quindi che questo accada e che ci sia un mondo a parte, volutamente a parte, che è a parte dagli insegnanti ma anche a parte dei genitori. L'altro giorno, proprio a proposito di questa cosa, un preside a Trento ha proposto una sorta di linee guida per un controllo maggiore del social network nelle ragazzi e ragazze sotto i 16 anni. Io sono molto d'accordo, non sarà facile, però io credo che non possiamo neanche star qui a aspettare il prossimo caso di cronaca, che purtroppo questo è venuto a galla perché è molto grave. Chissà quanti dici invece ce ne sono. È ovvio pensarlo, naturalmente, che poi non sono così poco gravi, perché chi fa il mio mestiere sa che una violenza psicologica subita a 13-14 anni, te la porti per esempio, dietro. Sì, per esempio affossando la tua autostima. E questo lo vedi magari a 20-25 anni. Quindi ha ragione il Presidente del Senato quando dice la prima rete contro il bullismo va costruita a scuola, ma anche come sempre anche a casa. Paolo Crepè, ci dobbiamo lasciare, ma ci saranno molte altre occasioni. Grazie Paolo, grazie Carla Ardizzone. Buonanotte. Grazie. Grazie mille. Grazie, buonanotte e buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Scrive Marcella da Milano, sempre a proposito dell'inaspossibile inasprimento, le norme che riguardano i fannulloni nella pubblica amministrazione, dice: è vero, tutte le volte in cui si è deciso di denunciare gli assenteisti della pubblica amministrazione, questi o si erano prontamente iscritti a un sindacato o denunciavano noi per mobbing, quindi sarà una dirigente. Marcella dice: tutto si sfaldava, accidenti, ben venga la legge dal Consiglio dei Ministri. Tra poco lo spazio europeo, ma vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Il nuovo fondo dell'Unione Europea sull'Italia: non abbiamo interlocutori, diciamo, all'altezza, questo era il senso dell'Unione Europea nei confronti del governo italiano, ma il ministro Gentiloni risponde: polemiche inutili, abbiamo un governo che dialoga. Piazza Affari a picco con le banche, soprattutto con MPS, sulla quale indaga la Consob, ha chiuso a meno 15%. La sindaca di Quarto, vicino Napoli, Capuozzo, dice: il Movimento 5 Stelle è scappato davanti alla lotta al malaffare. Sulle unioni civili si va verso possibili modifiche dopo l'intervento di Mattarella su possibili elementi di incostituzionalità. Paura dei compagni bulli, ne abbiamo appena parlato, si butta a Pordenone dalla finestra di casa a 12 anni una ragazzina, si è salvata e nel biglietto ha scritto: così sarete contenti. Migranti, Slovenia e Croazia potrebbero sospendere Schengen. E poi la riforma della pubblica amministrazione con la leader CGIL Camusso che dice: contro le nuove norme antifannulloni bisognerebbe applicare quelle che già ci sono. E poi la morsa del gelo sull'Italia, vento e neve al centro-sud, scuole chiuse in molte zone, nuova allerta per il maltempo. E adesso vi presento un nuovo spazio europeo che ci sarà il lunedì e il giovedì qui a Effetto Notte, che si chiama EU-Zone, scritto EU-Zone, cioè Zona Europa. Esiste anche uno spazio dedicato su radio24.it. EU-Zone, incontro con gli europarlamentari. Nome: Tiziana. Cognome: Begin. Età: 44 anni. Nata: Genova. Eletta in? Nella circoscrizione nord-ovest. Con quanti voti? 22.500 circa. Partito politico? Movimento 5 Stelle. Gruppo politico? FDD. Segni particolari? Mamma di 3 bimbe eccezionali. Quante lingue parla? Compreso l'italiano, 4, inglese, francese e tedesco. Competenze europee in 10 parole? Commercio internazionale, trattati commerciali, le politiche del lavoro, gli affari sociali, lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tutto ciò che ha a che fare con il mondo dell'imprenditoria, diciamo. Benvenuta nella U-Zone di Radio 24. Un titolo da Repubblica, la base grillina in rivolta. Io non ho questo tipo di sensazione sulla base grillina in rivolta. Altro titolo di giornale, UE bocciata la dichiarazione pro eutanasia, da Avvenire. In realtà noi non è che abbiamo tutte queste competenze in questo senso, si danno delle opinioni. Tutta la verità e nient'altro che la verità su Quarto. Quarto è un esempio della macchina del fango mediatico. Il TTIP vedrà mai la luce? Io mi auguro di no, ma di sicuro non abbasseremo la guardia. Il 2016 sarà l'anno del dragone? Sarà l'anno in cui la concorrenza sleale cinese potrà colpire liberamente le nostre piccole e medie imprese, le nostre aziende. Le piace l'Europa così com'è? No. Questa Europa non mi piace. Perché? Ma io credo che l'Europa stia tradendo costantemente gli obiettivi che si era preposta di perseguire. Quindi cosa vorrebbe cambiare? Di sicuro il governo centrale dell'Europa. La sua battaglia vinta? Direi la trasparenza sul TTIP. Quella persa? Ma sono ancora in carica, quindi non credo di aver perso ancora alcuna battaglia. Le sue 5 priorità se fosse presidente dell'Europarlamento? L'abolizione, la diminuzione degli sprechi di questa macchina burocratica immensa, un maggior rispetto della democrazia interna, rispetto delle regole, una maggior tutela delle minoranze. Le piace Martin Schulz? Ma non saprei, diciamo che non è il mio tipo. Si ricandida alle prossime elezioni europee? Non è una cosa a cui sto pensando, per adesso mi concentro a lavorare. Vorrebbe fare politica in Italia? Vorrei che più gente si occupasse di politica in Italia. Prima di Beppe Grillo, per chi votava? Ho votato per i Verdi, per i Radicali, per l'Italia dei Valori e poi per fortuna ho votato per il Movimento 5 Stelle. L'Italia come vede l'Europa? Molto lontana, molto prepotente ed effettivamente a volte lo è per davvero. E l'Europa come vede l'Italia? Ma io credo che la veda come i politici l'hanno rappresentata in passato, quindi c'è molto lavoro da fare per recuperare e lo stiamo facendo. Perché le piacciono le giraffe? Intanto hanno il cuore lontano dai pensieri, però in realtà mi piacciono tutti gli animali. Ci manda una cartolina dal Kenya? Se mai ci sarà un altro summit del WTO in Kenya. Tra 10 anni come si vede? Forse con qualche ruga in più. Farà fare l'Erasmus alle sue figlie? Ma credo che le mie figlie, e quello che io voglio per le mie figlie, è che scelgano da sole i loro percorsi di vita. E se le chiedessero di andare a studiare in Cina? Non so chi dovrebbe chiedermelo perché, ma a priori non ho ricevuto mai occasioni di crescita personale. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.